Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, vi stavo aspettando, sono le 11.10, abbiamo Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, sono qua e con me anche il nostro sommario. Infezioni delle vie urinarie, dalla diagnosi alla terapia. Anche i farmaci soffrono il caldo. Regala e regalati un po' di serenità. Sono molto comuni e a volte si affezionano e ritornano. Preferiscono le donne, ma non risparmiano gli uomini. Ai bambini non fanno sconti. Oggi parliamo di infezione delle vie urinarie, tra le infezioni seconde solo a quelle dell'apparato respiratorio. Di solito si annunciano in modo chiaro, con sintomi che nella maggior parte dei casi non lasciano dubbi. Forse li conoscete anche voi, ma li ripassiamo. Frequente bisogno di urinare. Dolore o bruciore durante la menzione. Sangue nelle urine. Fastidio nella parte mediana del basso addome. Bene, adesso che vi ho presentato il tema del giorno, vi presento l'ospite del giorno, il professor Giuseppe Remuzzi, primario di nefrologia agli ospedali riuniti di Bergamo. Professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Professore, molto comuni, spesso autogestite, sì. Le infezioni delle vie urinarie di solito vengono vissute come molto fastidiose, ma come poco pericolose, soprattutto se riusciamo a tenerle a bada e a farle risolvere in breve tempo. Lei è d'accordo? Esatto. Sì, certo, non si muore per amore, dicono, e neanche Senta. Cistite non si muore, questo è il fatto che insomma non viene tanto studiata questa cistite, perché è così comune che come il raffreddore qualcuno dice ma insomma si può anche non fare niente, forse si può fare a meno persino di studiare queste cistiti che alla fine sono davvero molto poco studiate. Senta, però queste infezioni sono a tutti gli effetti, possiamo dirle come una sorta di invasione di germi che colonizzano degli organi e dei tessuti che invece dovrebbero essere risparmiati, e quando l'invasione prende il sopravvento, cerco di visualizzarmela, arrivano i segni e i sintomi che sappiamo sono, vabbè, non preoccupano però danno fastidio. Allora, possiamo, professor Remuzzi, analizzare alcune condizioni o situazioni che possono aumentare il rischio di essere così invasi da questi germi? Certo. Allora, io inizierei dal genere. Perché noi donne siamo più vulnerabili, questo lo sappiamo. Sì, voi donne siete sempre favorite in tutte le malattie. Tranne che nel lupus, che è una malattia rara, e nella cistite. Senta, professore, però anche l'igiene intima conta qualcosa. Quali sono gli errori secondo lei da evitare o quelli più frequenti? Ma sa che sull'igiene intima non c'è poi così tante evidenze e così tante sicurezze. Ci sono certo degli eccessi da evitare. In generale bisognerebbe evitare di irritare l'uretra, che è un tubicino, la parte finale è un tubo che collega la vescica con l'esterno. Questo tubicino qui è un po' vulnerabile perché è esposto ai germi che vengono dall'esterno, soprattutto nelle donne, dove la parte terminale dell'intestino è molto più vicina all'uretra di quanto non succeda per l'uomo. E allora lì si creano dei germi, c'è anche la vagina dove ci stanno normalmente tanti germi anche in condizioni normali, e quindi bisogna fare un po' di attenzione con tutte le irritazioni meccaniche e chimiche, per esempio quegli spray che vengono utilizzati. Però alla fine non c'è moltissimo sugli stili di vita, magari questo è un discorso che riprendiamo dopo, ma non ci sono davvero errori da evitare. Ma ad esempio tutti raccomandano, soprattutto in estate, professore, non solamente a noi donne ma in generale, fate il bagno in piscina o al mare, non tenete il costume bagnato, non fatevelo asciugare addosso, ma cambiatelo subito, doccia con acqua fresca e costume asciutto. Questo può sì, dire qualcosa? Sì, queste sono regole di buon senso, io credo che vada bene. Per esempio qualcuno dice meglio fare la doccia, meglio fare il bagno, hanno provato a studiarle queste cose qua, non c'è una grande differenza. Non ci sono evidenze che sia meglio fare l'uno o l'altra cosa. Lavarsi è una buona cosa, non tenere il tessuto, il costume bagnato se il costume è stato soprattutto in piscina dove ci sono germi, batteri, funghi, protozoi, cose di tutti i tipi, è certamente una buona idea. Però di nuovo sono regole di buon senso, io credo che vadano seguite senza ossessioni. 824 0024, questo è il nostro numero verde, mi ero dimenticata di ricordarvelo, ma conto sulla vostra memoria, e il 349 238 6666 per inviarci messaggi che stanno già arrivando numerosi, e ne leggo proprio uno, ma anche io volevo chiedere la stessa cosa, e quindi io e Aldo siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Rapporti sessuali, quando, come, perché possono essere considerati fattori di rischio, professor Remuzzi? Ma abbiamo detto, di nuovo il problema è quello dell'irritazione dell'uretra, che può essere meccanica o chimica. Il rapporto sessuale è un modo per creare un'infiammazione locale a livello del perineo, e è un modo per irritare l'uretra e i tessuti che sono circostanti. Ecco, questo può essere una ragione, anzi è la ragione nelle giovani donne del 70% degli episodi di cistite acuta. Professore, c'è chi mette in relazione il tipo di alimentazione con una predisposizione maggiore ad avere infezioni delle vie urinarie. Questa relazione c'è? È stata così studiata oppure è una leggenda popolare? Questa relazione è stata poco studiata e io penso che non ci sia. Credo che sia davvero una leggenda. Quello che non è una leggenda è che un'alimentazione che consenta all'intestino di svuotarsi normalmente, la vescica è molto vicina all'intestino. L'intestino può essere un intestino che funziona molto bene, ma più si va avanti con l'età, più l'intestino può avere delle varie anomalie, possono esserci dei diverticoli, delle zone quindi di alterazione anatomica dove si annidano dei germi. Ecco, se l'intestino funziona normalmente, questo è importante perché anche la vescica funzionerà normalmente, c'è una sintonia tra vescica e intestino in un certo senso. E quindi un'alimentazione, ciascuno sa qual è la sua alimentazione, che gli consente uno svuotamento regolare e un buon funzionamento dell'intestino, è certamente utile per metterci al riparo della cistite. Io credo che le regole di alimentazione sono soprattutto quelle, salvo poi tutte le cose che fanno bene, per esempio le fibre fanno bene all'intestino, per esempio la frutta, la verdura, l'insalata, tutte le cose che aiutano la funzione dell'intestino aiutano anche una corretta funzione delle vie urinarie. Franca ci scrive: quando sono più stanca mi viene la cistite, chiedo conferma anche alle sue ascoltatrici. Quindi io vi lancio la domanda di Franca, ma chiedo al professor Remuzzi se molte donne, no, dicono: questo è un periodo veramente stressante, mi è venuto anche un attacco di cistite. Professor Remuzzi. Sì, quella lì non è un'infezione, la cistite, quella lì viene chiamata impropriamente cistite. Io credo che quello di cui soffre Frank è quello che in inglese si chiama hyperactive bladder, vuol dire una vescica iperattiva. Noi abbiamo la possibilità che la nostra condizione di stress, la condizione di essere tranquilli, di essere preoccupati, di essere agitati, si trasferisce sui nostri organi e per esempio sull'intestino. Sì. Ci sono delle forme di colite che sono infiammazioni dell'intestino assolutamente dipendenti dalla situazione di benessere, di tranquillità oppure di agitazione, di preoccupazione di una persona. E questo vale anche per la vescica, quindi uno magari ha bisogno di andare a urinare ogni 3 minuti, ha già urinato, ancora ha bisogno di urinare. Ecco, questo è però una cosa che ha a che fare col sistema nervoso centrale e non con i batteri. 800 24 0024, i messaggi 349 238 6666. Il professor Remuzzi resta con noi sino a mezzogiorno. Potete scrivere, lo state già scrivendo in tante. Tra poco rispondiamo anche a un messaggio: una cistite nella donna può scatenarsi dopo un rapporto sessuale. Vi ricordate, un tempo si parlava di cistite da luna di miele? A tra poco. Una mela al giorno. Perché noi apriamo una parentesi per parlare di caldo. Volevo ricordarvi subito un numero verde, 1500 oppure 1500, che il Ministero della Salute ha istituito per far fronte all'emergenza caldo. Ma intanto in linea con noi abbiamo il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia, che è tornato a trovarci. Dottore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Sono sempre molto felice di sentirla. Anch'io sono contento di essere sulla vostra emittente, sempre. Senta dottore, noi soffriamo il caldo e va bene, però anche i farmaci soffrono il caldo, e allora oggi vorremmo proprio con il suo aiuto dare alcuni consigli per conservarli in casa con buon senso, e anche quando li portiamo in vacanza con noi, magari durante lunghi viaggi. E vorrei poi approfittare con lei anche per segnalare che chi assume terapie deve comunque tenere conto del caldo e del sole. Dottor Gargiulo, iniziamo. Questi sono gli aspetti che vorrei toccare con lei. Inizierei da farmaci in casa. Perfetto, allora i farmaci in casa, intanto diciamo che con questa stagione, questo caldo eccessivo, anche le temperature all'interno della casa aumentano. I farmaci è bene che siano tenuti, conservati in un luogo riparato dal sole, quindi non esposto alla luce diretta solare che arriva dalle finestre, in un luogo che sia con una temperatura più o meno costante, non proprio freddo, ma con una temperatura più o meno costante. Questo evitare senz'altro quindi il classico armadietto in bagno o in cucina, perché i farmaci lì subiscono delle variazioni dovute all'aumento di umidità e al calore che in questi due ambienti è sicuramente superiore. Allora l'ideale è tenerli nell'armadio, nell'armadio guardaroba, in camera da letto, in una cassettina o una scatola, una bella scatola di cartone, al riparo da tutto questo. Se poi ci sono farmaci che hanno bisogno, e sui farmaci è indicata la temperatura di conservazione, e hanno bisogno di essere conservati in frigorifero, quindi guardiamo bene le scatoline, questi vanno tenuti nel frigorifero nella parte bassa riservata, quella della frutta e della verdura, perfetto. Esattamente, che c'è una buona temperatura. Io consiglio di tenerli però in una scatola, anche questi in una scatola tenuta stagna, perché in frigo si forma sempre un po' di condensa o di umidità che può creare qualche problema magari sulla scatolina di cartone più che sul farmaco, che è una confezione stagna. Ma però quante ne sa dottor Gargiulo, è vero, ecco. Senta dottore, invece per chi viaggia, viaggi anche abbastanza lunghi, penso alle persone che partono in vacanza, ore e ore, coda, magari in autostrada, soste per... Allora, in macchina li metteremo nel bagagliaio, nella parte in fondo del bagagliaio, quindi vicino a quello che è l'abitacolo, abbiamo messo in fondo, e anche lì in una valigetta, meglio ancora se poi oggi si trovano con quattro soldi, una borsa termica, senza ghiacci dentro, una borsa termica che mantiene la sua temperatura, quindi ripara dal caldo, dal freddo eccessivi, e quindi i nostri farmaci sono conservati bene e non ci danno problemi. Niente lunotto posteriore, niente esposizione al sole del contenitore o peggio ancora della scatolina, niente che possa aumentare troppo la temperatura di questo farmaco. Per chi viaggia in aereo invece un'accortezza, i farmaci nel bagaglio, se li mettete nel bagaglio che viene spedito perché fate magari un viaggio lungo, tenetene una piccola scorta anche nel bagaglio a mano. Se si perde il bagaglio, almeno per qualche giorno i vostri farmaci potete continuare ad assumere, ad esempio chi usa farmaci per l'ipertensione o per il cuore. Quindi questo è importante. Altra cosa, quando viaggiate portatevi sempre dietro la ricetta dei farmaci, preparate un elenco dei farmaci, la portate dal medico, lui ci mette un timbro e una firma, con quella se eventualmente perdete le scatoline dei medicinali potete andare in farmacia e ricomprarvi almeno. Dottore, abbiamo detto caldo e sole e assunzione di farmaci. Esatto, questo è l'altro aspetto, l'altro punto dolente. Quando arriva il caldo, le temperature, l'aumento della temperatura può provocare un potenziamento dell'effetto dei farmaci, soprattutto i farmaci antipertensivi e i farmaci per il cuore possono aumentare il loro effetto perché c'è più sudorazione, perché abbiamo una situazione che comporta già magari un abbassamento di pressione. Non sospendete le terapie, non riducete le terapie, ma misurate più spesso la pressione. Se la pressione scende troppo, allora consultate il vostro medico e insieme a lui farete un cambiamento di terapia. Niente fai da te, perché fai da te in questi casi potrebbe essere molto pericoloso. Soprattutto poi chi assume diuretici deve bere un po' di più, perché così l'effetto del diuretico viene compensato da maggiore acqua che viene introdotta. Ancora importante sono quei farmaci che hanno un effetto fotosensibilizzante. Uno per tutti, la pillola anticoncezionale. Quando prendiamo questo farmaco, l'esposizione al sole può creare antiestetiche macchie o aumentare la sensibilità al sole, quindi rischio di ustioni. Faccio un salto anche dal professor Remuzzi, che è in linea con noi. Il dottor Gargiulo non lo sa perché l'abbiamo preso in corsa. Io lo saluto molto volentieri. E so che vi conoscete, vi apprezzate molto. Professor Remuzzi, vuole dare una raccomandazione anche a lei sui farmaci o salutare il dottor Gargiulo? Mi piace. Preferisco salutare il dottor Gargiulo perché ha detto tutto così bene che veramente non c'è nulla da aggiungere, e lo saluto approfittando di Radio 24. Dottore, allora la salutiamo anche noi, ma forse noi ci sentiamo ancora prima delle vacanze. Ma io sono sempre, è sempre un piacere salutare lei e i suoi ospiti così importanti come il professor Remuzzi. Buona giornata, grazie al dottor Gargiulo. Pronto soccorso. Professor Remuzzi, a proposito di viaggi, ma esiste la cistite da luna di miele? Luna di miele o non luna di miele, insomma? Insomma, dipende se nella luna di miele uno ha un'attività sessuale, dipende da quanto è intensa l'attività sessuale. La luna di miele senza attività sessuale non comporta dei problemi alla vescica. Il problema è quello che abbiamo detto prima, c'è un'irritazione della vescica che dipende dal tipo, dalla frequenza, dalla violenza dell'attività sessuale. E questa irritazione favorisce il fatto che i germi che si trovano normalmente intorno all'uretra o nella vagina riescano a penetrare nell'orifizio dell'uretra e risalire su, e possono arrivare alla vescica e poi possono andare negli altri tubicini che salgono su fino al rene. Normalmente, per fortuna, questo non succede, ma certamente dopo un rapporto sessuale può esserci una infezione delle vie urinarie. Andiamo a Gianni, che ci chiama dalla provincia di Imperia, ha chiamato l'824 0024. Gianni, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno e complimenti come sempre. Buongiorno. Buongiorno. Allora, espongo il problema? Ma io direi di sì, che dice? Sì, buongiorno. Sì. Allora, io ho mia nipote, ha 21 anni, e ha un problema non continuo, ma periodi molto lunghi, di perdite tipo mestruo continuo. Ha fatto tutti gli esami del sangue, c'è una piccola anemia, la tiroide è ok, la visita ginecologica è ok, non prende la pillola. Sì. E perché non può, giustamente per la tiroide, e non riesce però a risolvere questo problema. Volevo capire se c'era professor, grazie Gianni. Professor Remuzzi, questo è un problema che non ha a che vedere con la questione delle vie urinarie. È necessario consultare un ostetrico e trovare la soluzione di questo problema. È certamente una cosa che non è fisiologica, e quindi bisogna capire la natura di questo problema consultando un ostetrico e eventualmente facendo delle indagini. Professore, il nostro ascoltatore Gianni molto probabilmente è stato colpito quando noi abbiamo dato i sintomi, no, dell'infezione delle vie urinarie, abbiamo detto sangue nelle urine. Ma questo non è un sintomo, uno dei tanti sintomi con cui si presentano queste infezioni. Il sangue nelle urine è una cosa seria. Il sangue nelle urine può voler dire nulla, ma è sempre da indagare. I sintomi sono conosciuti della cistite, specialmente alle donne. La vescica in un certo senso manda dei segnali che c'è necessità impellente di urinare. Delle volte si ha un dolore a livello della vescica appena sopra il pube, e questo può essere il segno più importante. Delle volte c'è non c'è un vero dolore, delle volte è più un senso di sconforto a livello del basso addome. Il problema è che quando c'è un'infezione urinaria i guai cominciano quando l'urina comincia ad attraversare l'uretra o appena dopo. Sì. Allora c'è bruciore quasi sempre o un vero proprio dolore. Quando capita ai bambini piccoli, piangono quando devono urinare o quando stanno urinando. Il dolore può essere trascurabile, ma anche molto importante al passaggio dell'urina. Ci sono delle persone adulte che descrivono il passaggio dell'urina in caso di cistite come se passassero dei pezzi di vetro. Senta, professor. Il sangue, negli attacchi severi l'urina può contenere sangue. Il sangue nelle urine è sempre una cosa da indagare. Può venire dal rene, può venire dalla vescica, può venire dalle vie urinarie, può essere una cosa banalissima e che non si risolve mai e che non crea mai nessun problema, addirittura non si vede. Può essere sangue che si vede e che non è un problema, ma può essere invece un problema importante. Ecco, quindi diamo questa indicazione, sotto controllo, sempre, assolutamente. Sempre. Anche negli attacchi di una cistite acuta ci può essere sangue, poi la cistite si risolve e il sangue deve andare via. Se il sangue non va via, allora bisogna fare delle indagini. Qui davvero ci vuole un dottore e non si può fare con la radio. Sergio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Donna Gentilezza, un saluto a lei, al dottor Remuzzi, al professor Remuzzi e a tutti gli ascoltatori. Grazie Sergio. Donna Gentilezza, io ho 52 anni. Sì. E sono sposato con una ragazza, con una signora maltese. Sì. Io durante l'anno non soffro mai o quasi mai, forse in rarissimi casi, di cistite, di bruciore al canale urinario. Quando vado d'estate a Malta, quasi quotidianamente di notte, mi succede di soffrire di questi bruciori. Non riesco a capire da cosa possa dipendere. Professor Remuzzi. In estate si cambiano tante abitudini. La cosa più frequente che si cambia in estate sono le abitudini alimentari. Sì. E quindi potrebbe darsi che questa cistite che viene in estate ha a che fare con la funzione dell'intestino. Oppure può essere che in estate c'è un'esposizione più facile perché ci si veste in modo diverso, si hanno contatti diversi, si frequentano ambienti diversi, a germi ambientali a cui normalmente non siamo abituati. Non si è abituati. Possono anche cambiare le abitudini sessuali d'estate e anche quello può essere un'altra causa di cistite. Carlo mi scrive, sarà colpa della suocera. Ogni cosa, tutte le cose che capitano, c'è sempre poi qualche ascoltatore che dà la colpa alla suocera. In questo caso è il cambiamento delle abitudini alimentari. La suocera non c'entra. Siamo tornati insieme, in linea con noi abbiamo il professor Remuzzi, primario di nefrologia agli ospedali riuniti di Bergamo, con cui parliamo di infezioni delle vie urinarie. Professor Remuzzi, un attacco acuto di cistite, lì inizia spesso il fai da te. Sì, adesso si è capito abbastanza bene che per l'attacco acuto di cistite bastano i sintomi per fare la diagnosi e una telefonata a qualcuno che può confermare che questi sintomi configurano un attacco di cistite. È stato fatto un bello studio negli Stati Uniti per dimostrare questo. I sintomi sono dolore, bruciore e necessità di urinare spesso, frequenza. Allora, dolore, bruciore, frequenza, 3 giorni di antibiotici. Il problema si risolve nella stragrande maggioranza dei casi, però devono essere gli antibiotici giusti. Bene. Non c'è bisogno di fare esami. Qualcuno una volta diceva, ma bisognerebbe guardare le urine, vedere se ci sono i leucociti, vedere se ci sono i batteri. È stato visto in questo studio che fare esami o non fare esami non cambia l'atteggiamento che bisogna avere nei confronti della cura di questa cistite acuta, che sono la prima volta 3 giorni soltanto di antibiotici, cominciando con un antibiotico che si chiama trimetoprim, che è meno caro del furadantin, che è l'altra scelta. Senta, professor Remuzzi, però noi sappiamo, almeno l'abbiamo detto anche in apertura, che spesso si affezionano e ritornano. Ecco, come mai? Le abbiamo curate male? Noi dobbiamo distinguere la cistite in due condizioni differenti. La condizione che riguarda la maggior parte delle persone è estremamente frequente, abbiamo detto è quasi frequente come il raffreddore, di solito sono donne giovani, però naturalmente si può stare molto male con questa cistite anche se una volta sola, anche se acuta, abbiamo detto come si fa, non c'è bisogno di esame. La seconda condizione è una condizione completamente diversa, riguarda un numero inferiore di persone, possono essere bambini, giovani donne che hanno cistiti ricorrenti o persone anziane. Allora, quando la cistite arriva una volta, nel 20% dei casi si ripropone un'altra volta e poi un'altra volta ancora e allora diventa una cistite ricorrente. A quel punto lì non bastano più i sintomi e non basta più il fai da te. Il fai da te va benissimo per la prima volta, salvo una telefonata a un'infermiera o un medico che confermino che si tratta davvero di una cistite acuta sulla base di quei 3 sintomi. E poi invece le forme ricorrenti, allora ci vogliono esami, ci vogliono degli esami di urine che ci consentano di vedere se ci sono i globuli bianchi, segno di infiammazione, di infezione, e poi serve anche di guardare quali germi hanno causato questa cistite, perché generalmente i germi che causano il primo attacco sono ancora quelli che si ripresentano al secondo, perché sono rimasti lì nella vescica, non sono andati via, e allora dobbiamo sapere quali sono, perché ci sono antibiotici diversi per germi diversi, e poi bisogna essere certi che non siano invece dei germi legati, trasmessi sessualmente, che sono clamidia e neisseria, che danno dei disturbi un po' diversi, generalmente meno importanti della cistite acuta batterica, ma più subdoli, più pericolosi. Quindi bisogna alle forme ricorrenti dare nome, cognome e indirizzo. E si può fare facilmente. Certo, si può fare facilmente con l'esame dell'urina, e poi bisogna fare la cultura dei germi, bisogna sapere se questi germi crescono, quanto rapidamente, chi sono, come si chiamano, perché questo ci aiuta poi a curarli in modo da eradicare l'infezione, evitare che rimangano lì o che si sviluppino per questi germi delle resistenze agli antibiotici che poi diventano davvero un problema. Gianpiero ci chiama da Brescia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Il mio intervento era relativo a appunto questo. Io 2-3 mesi fa insomma avevo avuto una cistite che si è presentata con i sintomi classici, quindi insomma un bruciore incredibile, e mi sono fatto il mio ciclo antibiotico e mi è passato. Dopo mi è tornato dopo un po' di tempo, ma e non mi è più andata via praticamente, però in maniera proprio lieve. Cioè io quando vado al bagno ho presente un bruciore, ma molto lieve e sopportabilissimo, quindi all'inizio pensavo mi andrà via, ma dato che mi continua adesso ha pensato di chiamarci, ha fatto bene Giampiero. Allora professor Remuzzi, no, una cistite, quanti anni ha Giampiero? 35. Una cistite che ricorre in un uomo di 35 anni va indagata, perché potrebbe esserci un calcolino, per esempio, che rende difficile il passaggio dell'urina, l'urina ristagna un po', si formano dei germi, potrebbe esserci una piccola malformazione, potrebbe esserci qualcosa che giustifica la ricorrenza della cistite in un uomo. Bisogna guardare la prostata, può esserci un'infiammazione della prostata, quindi la cistite che ricorre nell'uomo va indagata, direi, ancora più attentamente di quanto non si debba fare nelle donne. Quindi, professor Remuzzi, noi abbiamo già detto, prima cosa assoluta, se avete sangue nelle urine, attenzione, fate esami, giusto? Certo, e poi fare l'esame delle urine, come minimo l'esame delle urine, poi si vede nelle cistiti ricorrenti di un uomo di 36 anni. Ok, avete preso nota? Lia, da Venezia, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Trieste. Da Trieste, l'hanno trasferita a Venezia d'ufficio, chissà, magari volevano... Grazie. Ecco, dunque, ho 65 anni e volevo chiedere gentilmente al professore se mi dà una delucidazione. Dunque, io ho già anni questo problema, non da oggi. Ecco, quindi al pomeriggio io mi ritrovo un peso. Ecco, un peso, ho problemi a star seduta, a stare in piedi e tutto così via. E se non mi metto a riposo così, mi subentra effettivamente la cistite. Ecco, io ho... da sola scoperto, quindi chiedo un parere al professore, potrebbe essere il nervo pudendo infiammato? Potrebbe essere, ma brava, anche questa cosa. Ma brava Lia, come ha fatto a pensarci? Ho trovato per caso, dopo tanti anni, adesso infatti devo rivolgermi anche a un medico effettivamente di persona, però volevo chiedere gentilmente al professore. Professor Remuzzi, Lia ci ha quasi preso, mi sì, sembra. Certo, perché ci sono delle cistiti che in realtà non sono sostenute da batteri. Uno vede che ha i sintomi che assomigliano molto a quelli della cistite, però non ci sono batteri, non ci sono funghi, non ci sono microrganismi, e allora da dove viene? Allora certo può essere una forma neurologica e quindi diversi nervi possono essere coinvolti nel dolore, può essere anche una malattia della parete della vescica, delle cellule che rivestono la parete della vescica. Sì. Questa è una forma che si chiama cistite interstiziale, è una malattia cronica, ha gli stessi sintomi della cistite, dipende da delle alterazioni di certe proteine che si trovano sul rivestimento esterno delle cellule che formano il pavimento della vescica. Possono esserci delle alterazioni del sistema immune, per esempio degli anticorpi che sostengono questa malattia. Possono essere delle alterazioni delle cellule del sistema immune, i linfociti, che hanno a che fare con questo disturbo. È una cosa che va indagata, perché adesso probabilmente c'è anche una cura. E siamo tornati e noi abbiamo Maria Luisa che ci chiama da Prato. Buongiorno Maria Luisa, buongiorno, benvenuta. Grazie. Io ecco avrei diciamo il piacere di dare la mia ricetta, diciamo come dire fai da te, però sperimentata su di me. Sì. Naturalmente premetto che faccio uso anche insomma sempre di situazioni naturali, cioè di rimedi naturali anche omeopatici. Però ecco quello sulla cistite che ho sperimentato su di me. casualmente poi sono andata ad avere conferme, sono i fiori della lavanda. Naturalmente di fare appunto questa tisana, diciamo, abbastanza concentrata, sì, e prendere almeno 2-3 tazze al giorno nei momenti di crisi, senza zucchero. Sì. Non è proprio piacevole perché un po' cattivina. Ecco, un po' cattivina, però sinceramente lascia una sensazione a distanza di 2-3 giorni di pulizia e di freschezza nel canale. Sì. Cioè, io l'ho proprio sperimentato. E naturalmente la lavanda deve essere un fiore non comprato all'ultimo momento al supermercato o nella serra, ma una pianta che è lì nel giardino almeno da un anno e che sia quasi un po' biologica. Insomma, Maria Luisa, dobbiamo avere la cistite, avere il giardino e avere nel giardino una pianta di lavanda. Fiori freschi. Va bene, e sembra funzioni. La ringrazio, Maria Luisa, per questo suggerimento. Professor Remuzzi, l'aveva sentita mai la lavanda? Io ho sentito ad esempio il mirtillo. No, il mirtillo sì, la lavanda no. Io avevo sentito che mia nonna, quando aveva un problema di salute, tantissimi anni fa, prendeva delle foglie nel giardino, faceva un giro intorno a una chiesa vicino al suo posto dove abitava e poi dopo tornava a casa e diceva che sentiva una sensazione, si sentiva molto meglio. Va bene. E così, probabilmente non era molto malata in quei giorni lì, quando poi si sentiva meglio con le sue foglioline. Senta, con le foglioline, il mirtillo invece è stato studiato. Sì, il mirtillo è stato studiato. Il mirtillo ha questa capacità di essere in un certo senso un disinfettante delle vie urinarie, sì, perché il mirtillo è capace di impedire, questi batteri sono soprattutto Escherichia coli, questi batteri qua, sì, hanno delle fimbrie, si chiamano, sono come delle ciglia. Sì, dei baffetti molto lunghe, mi veniva da dire. Dei baffi, ecco, questi batteri qui attraverso questi baffi si attaccano a certi recettori della parete delle vesciche. C'è proprio una interazione chimica importante tra la parte terminale di questi baffi e il loro corrispondente recettore sulla parete della vescica. Sì. Le sostanze che contiene il mirtillo impediscono a questi baffi di appiccicarsi al recettore. E allora ci sono delle formulazioni di mirtillo rosso che sono vendute nei supermercati, per esempio anche nelle farmacie, anche nelle erboristerie, dove uno non dovrebbe mai andare perché queste erbe non fanno niente, ma insomma lo fanno male. Ma nel caso del mirtillo va bene. Ci sono anche degli alimenti, ci sono succhi di frutta che contengono il mirtillo, ci sono degli integratori alimentari che contengono il mirtillo. Quindi svolge, vogliamo dire, un'azione preventiva o curativa? Questo mirtillo possiamo prenderlo? Mirtillo si deve usare per prevenire. Io direi che l'unica vera cosa che si applica però alle donne che hanno infezioni ricorrenti delle vie urinarie in età fertile, e soprattutto a loro che si applica il preparato di mirtillo per prevenire la cistite, e ci sono dei belli studi che fanno vedere che questo è effettivamente vero, questo previene, non cura la cistite quando la cistite c'è, ci sono batteri, bisogna fare l'antibiotico, abbiamo detto come, ma la prevenzione è legata soprattutto all'impiego del mirtillo. Quindi ragazzi, andiamo di mirtillo, e invece noi andiamo a sentire la mail di Rosario che ci aveva mandato nei giorni scorsi e che ci ha fatto dire insieme a Laura Vanossi: e se parlassimo di infezione delle vie urinarie anche nei bambini? Andiamo. Al mio bambino di 6 mesi è stata diagnosticata un'infezione alle vie urinarie dovuta a una malformazione congenita evidenziata da un'ecografia. Sono molto spaventato. Che cosa ci succederà nei prossimi anni? Mi sono stati forniti pareri discordanti. C'è chi suggerisce una lunga profilassi antibiotica, chi suggerisce l'intervento. Siamo confusi e gradiremmo un consiglio dei vostri esperti. Con noi abbiamo il professor Mario De Gennaro, che è primario urologo e responsabile di urodinamica pediatrica all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Buongiorno professore, bentornato anche a lei. Buongiorno a lei, ben trovata. Professore, allora qua abbiamo un'ecografia che dice che questa infezione delle vie urinarie potrebbe proprio essere causata da una sorta di malformazione, giusto? Sì, è giusto, è molto chiara l'email ed è veramente anzi sono molto contento di affrontare questo problema. Ci sono alcuni equivoci probabilmente da togliere e chiarire alle mamme un po' le cose, perché è ovvio che un'infezione urinaria, ma è abbastanza difficile per una mamma distinguere le vie urinarie dai reni, quindi ovviamente si pensa da parte di una mamma a un organo vitale, certo, di cui anche si dice che forse non è fatto bene in un bambino piccolo che non può raccontarci il suo punto di vista, e una mamma è chiaramente terrorizzata. E ci sono una serie di equivoci, secondo me, in cui la si può aiutare. Allora, la mamma, mi sentivo dall'email, questo è un padre, ma è uguale, perché anche una mamma al bambino. È un papà, ecco, di solito abbiamo più a che fare con le mamme, ma siamo così contenti che se ne occupino anche i padri. I papà. E parla di infezione urinaria e, dice... e di un'osservazione che è stata fatta di una dilatazione delle vie urinarie. Sì. Allora, l'infezione urinaria in un bambino maschio di 6 mesi non necessariamente è legata a quello osservazione ecografica, potrebbe semplicemente essere una coincidenza, perché è talmente frequente per un bambino maschio che ha per definizione la pelle del prepuzio chiusa che ci siano dei germi sulla pelle, che se si va a fare un esame delle urine si raccolgono esattamente dei germi, quindi l'esame urine è fatto bene, perché dentro le urine si trovano dei batteri, ma non è detto che quei batteri vengano da dentro il bambino, quindi infezione, possono venire da fuori il bambino, ma sulla pelle. Certo, sul pisellino. Sul pisellino, per cui è la prima cosa che viene chiesta in occasione di una osservazione di un'ecografia con una dilatazione e di fare un esame delle urine, ma va ben distinto, perché è talmente frequente sia l'infezione e la presenza di un pisellino diciamo fimotico nel bambino, sia la dilatazione, bisogna stare attenti a mettere insieme le due cose, altrimenti viene fuori il terrore. Anche perché, professore, nella maggior parte dei casi questa dilatazione poi alla fine nel tempo si mette a posto. La dico un po' alla brutta, ma è così, la natura fa poi, come si dice, il suo corso. Prima si interveniva, adesso avete capito qualcosa in più. Assolutamente sì. Se prendiamo 100 bambini, ecco, do dei numeri che in parte sono stati provati scientificamente, in parte fanno parte di una diciamo esperienza personale, quindi la chiami expert opinion, il livello più basso di evidenza, però su 100 bambini che abbiano una dilatazione delle vie urinarie osservata ad un'ecografia in un bambino piccolo piuttosto che vista nel feto, io direi che soltanto 10 forse possono avere un problema. Tutti gli altri hanno semplicemente una situazione funzionale per cui le vie urinarie vanno un po' più rallentate, perché anche le urine sono trasportate da dei muscoli, e con l'andar del tempo si assesta questa situazione, ma anche se non si assesta completamente non è detto che portino dei problemi. Quindi messaggio di tranquillità, a cui ne aggiungiamo uno prima di salutare il professor Remuzzi e il professor De Gennaro: ai vostri bambini insegnate a fare pipì, a non trattenere la pipì, dateli degli appuntamenti prima della merenda, fai pipì, ti lavi le mani, vieni a fare merenda, insomma non aspettate che i vostri bambini abbiano solo lo stimolo, insegnateli a fare pipì. Posso chiudere con questo consiglio da mamma, professor Remuzzi, professor De Gennaro? Sì, uno dei due è uguale. Sentiamo il professor De Gennaro. Ma per carità, è chiaro che poi i bambini crescono, per cui insomma le bambine diventano adulti con anche i loro problemi, e forse il messaggio che vorrei dare è che si sta cominciando a vedere che lavorare bene, come ha detto la dottoressa, sullo svuotamento della vescica nelle bambine molto probabilmente è un atto di prevenzione dei problemi nelle donne adulte, in quanto sta venendo fuori che uno dei fattori di rischio delle infezioni nelle donne adulte è proprio quello di aver avuto problemi da bambini. E il concetto è identico alla dilatazione del feto del bambino piccolo: dovunque c'è una urina che cammina lentamente, i batteri, come ha spiegato prima il professor Remuzzi, che ho avuto il piacere di ascoltare, che eventualmente fossero entrati, hanno la possibilità di moltiplicarsi e quindi di anche di attaccarsi con le loro fimbrie ciglia alla e baffetti rete della vescica. Allora io devo salutare professor Remuzzi, professor De Gennaro, vi ringrazio davvero per essere stati con noi e possiamo chiudere questa puntata dicendo andiamo a fare una bella pipì. Grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie ai nostri ospiti che sono intervenuti, appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Essere e benessere.